la versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:30 primi e 52 secondi dagli studi di Milano. Vi ringrazio per l'ascolto, Oscar Giannino in diretto in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, chiocciolaradio24.it, per proporvi per la serie Italia non per giovani, a maggior ragione dopo i recenti dati demografici, oppure per chiedere opinioni, proporre altri temi di trasmissione. E, vi dico subito di che cosa parliamo oggi. Parliamo della pubblica amministrazione, perché lo spunto, l'occasione è quella dell'uscita di un libro per Longanesi, editore. Il titolo del libro è I signori del tempo perduto, i burocrati che frenano l'Italia e come provare a sconfiggerli. E soprattutto questo è il punto a cui arriviamo, perché vi descriveremo le tre strade proposte dagli autori, delle quali una, purtroppo, per quelli che la pensano come me, è definita abbastanza improbabile e realistica, e quindi verificare se le altre due invece rientrano nelle agende possibili del nostro paese. Quindi pubblica amministrazione, e gli autori di questi due libri sono il professor Francesco Giavazzi e Giorgio Barbieri, che è un giornalista che scrive sui quotidiani veneti del gruppo Espresso Repubblica, quindi Finegil, e che è qui con noi oggi pomeriggio. Grazie di aver scritto questo libro, grazie di aver accolto questo invito, Barbieri. Grazie a voi dell'invito, buonasera. E abbiamo con noi anche un dirigente pubblico e blogger. Il blogger lo trovate all'indirizzo www.tantopremesso.it, tanto premesso tutto attaccato, formula burocratica per eccellenza, cioè Alfredo Ferrante. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Ferrante. Buon pomeriggio a voi. Allora, questo libro è innanzitutto, lo dico subito a chi ci ascolta, non è un trattato di diritto amministrativo, quindi non è per addetti ai lavori. Si vede che c'è la mano Giorgio Barbieri, del resto neanche il professor Giavazzi è un economista, non è un amministrativista. È un libro snello, organizzato partendo da un paragone storico, e cioè si paragona il problema della necessità di affrontare una riforma vera della pubblica amministrazione paragonandola alle riforme che resero il Giappone moderno, quello dell'epoca Meiji, cioè quando l'imperatore Mutsu Itō dal 1868 al 1912, pensate quanto ha regnato, mise fine all'epoca Tokugawa. L'epoca Tokugawa era quella dei signori della guerra, in cui il Giappone era isolato dal mondo, aveva solo di fronte a un isoletta di fronte a Nagasaki l'unico contatto con il commercio estero, dominavano i signori della guerra e i samurai, l'imperatore non contava niente. Nell'arco del suo regno quell'imperatore invece decise che il Giappone aveva bisogno A di aprirsi al mondo, B di diventare una nazione moderna, di industrializzarsi, eccetera eccetera, e il suo problema iniziale fu proprio quello di come affronto il problema della casta dei samurai. E lo affrontò in una maniera razionale, oltre che con le armi, perché ci furono diversi episodi di resistenza armata dei signori della guerra al fatto che l'imperatore riprendeva il suo potere, che per secoli era diventato puramente fittizio, e affrontò questo problema proponendo ai samurai un trade-off, uno scambio, dicendo: noi vi versiamo, lo Stato vi versa 7 anni e mezzo di indennità. È un po' come quando io propongo, adesso si arrabbiano i tassisti, di esaminare la quota non ammortizzata del valore della loro licenza rispetto ai prezzi in cui l'hanno assunta in caso di liberalizzazione a Uber e ai trasporti punto punto su piattaforma. Ecco, il paragone è sempre lo stesso: versò l'imperatore giapponese 7 anni e mezzo di rendita ai samurai e li incitò a diventare imprenditori, cosa che effettivamente per molti di loro, per 100.000 su 400.000, avvenne. L'impresa moderna in molti casi nacque in quel caso, oltre che con il capitale pubblico, nacque da loro, e il problema in un paio di decenni fu per così dire risolto. Allo stesso modo gli autori di questo libro dicono: noi abbiamo un grande problema, naturalmente tutti i dirigenti pubblici e i pubblici dipendenti si offenderanno a morte all'idea di essere paragonati ai daimyo, ai signori della guerra giapponesi, ai samurai che avevano isolato il loro paese dal mondo, perché ovviamente dicono questo è un paragone offensivo, ma come vi permettete? Però quello che conta è il metodo per affrontare il problema, per così dire. Nel libro poi, e qui finisce la mia introduzione, passo immediatamente alle domande per parlare ai due ospiti, si passa rapidamente in rassegna l'evoluzione dei principi, dei fondamenti della pubblica amministrazione nel nostro paese dai tempi della legge di unificazione al 1865 in poi, cosa che immediatamente pose problemi, perché sapete che noi abbiamo esteso nel 1865 al Regno d'Italia l'ordinamento del Regno di Sardegna, quindi l'abbiamo semplicemente trapiantato senza nessuna riflessione critica. Ci furono degli avanzamenti dell'epoca, all'epoca anche proprio di rango europeo, perché per esempio la giustizia amministrativa con il riconoscimento dell'interesse legittimo da tutelare era una cosa che negli altri grandi paesi europei continentali all'epoca neanche esisteva, ma di fatto è la continuità quella che ha dominato. E malgrado 34 ministri della funzione pubblica nel corso dei governi della Repubblica e una dozzina di loro che hanno legato il loro nome a tentativi di riforma della pubblica amministrazione, il libro parte da un giudizio molto critico anche della riforma Madia. Molte promesse, ma di fatto alcune cose fondamentali, per esempio i principi per la retribuzione di merito verificabile ex ante ed ex post, interamente demandata ai contratti, quindi non è più rimasta traccia di linee indicate dalla politica su quello, vale per tutti i dipendenti, ma vale ovviamente a cominciare dai dirigenti, che è la questione fondamentale, dirigenti a cui diamo 800 milioni di euro l'anno, che è una bella cifretta, in realtà accettando l'idea che siano finti o quasi gli MBO, gli obiettivi su cui misurarli e allegramente divisi tra tutti, perché questa è la tradizione che noi abbiamo incardinato nel nostro paese. Un esempio tra tutti, ho finito, pensate all'esempio che ricorre nel libro. Nel 2012, quindi pochi anni fa, 9 studenti di famiglie povere della California ricorsero in tribunale e vinsero di fronte al tribunale di Los Angeles, distretto giudiziario di Los Angeles, ricorsero e vinsero contro le norme che sancivano l'inamovibilità dei docenti e il fatto che non fossero giudicati per merito e professionalità, perché sostennero che in quanto appartenenti a minoranze etniche, famiglie povere, cioè svantaggiati, il fatto che i docenti non fossero misurati e spostati o anche licenziati se incapace era un ostacolo al riconoscimento del principio di eguaglianza delle opportunità, e vinsero in tribunale. Ecco, misurate la distanza tra un ricorso di quel tipo fatto da studenti e il principio per cui noi facciamo le assunzioni di massa e continuiamo allegramente ad anticipare a considerare l'anzianità come il criterio. Ma mi fermo qua. Barbieri, non ci soffermiamo tanto sugli esempi infiniti che fate nel libro di che cosa non funziona, cioè voglio dire che al torrente Bisagno nel 1970 a Genova ci siano stati morti per esondazioni e che poi quando avvengono 44 anni dopo per i ritardi amministrativi non si era fatto quello che si era deciso 44 anni prima, perché questo la gente lo sa perfettamente quali sono i problemi con cui ci misuriamo. Iniziamo subito, se mi consente, dalle tre vie che voi indicate per tentare di affrontare un problema, stante però che lei ci deve riassumere prima perché lei e il suo coautore Giavazzi siete così critici, perché me lo chiedono gli ascoltatori, nei confronti della riforma Madia. Quindi cominciamo da questo. Allora, lei citava all'inizio l'esempio del Giappone. L'esempio del Giappone è interessante perché pone una questione di metodo su come affrontare, diciamo, le caste, chiamiamole così. Sì, anche all'epoca l'imperatore del Giappone io utilizzò l'astuzia. Cioè, e sono la già arrivati gli SMS ai dipendenti pubblici dicendo un libro che non leggerò mai. Punto. Ecco. Noi invece diciamo chiaramente nel libro che una burocrazia indipendente è fondamentale per una buona riuscita, per una buona organizzazione del paese. Citiamo ad esempio il caso della Banca d'Italia, che fino all'inizio degli anni Ottanta non poteva determinare i tassi di interesse e dipendeva dalle decisioni del Ministero del Tesoro. Il fatto che la Banca d'Italia... sa che però molti politici vogliono tornare a quello, la Le Pen in Francia, Salvini in Italia. Quella fu una delle cause. Non deve convincere pubblico. A me, però certo. Io la penso come lei, ma però per dire, ok. E quindi sgombriamo il campo. Nel libro diciamo che la buona burocrazia è fondamentale. In Italia c'è un problema di una cattiva burocrazia che blocca il paese, ma questo credo che chiunque, anche i dipendenti pubblici, che sarà sicuramente la maggioranza, i più bravi e preparati, ammetteranno. Nel libro noi parliamo anche della riforma Madia, perché è stato, secondo noi, uno dei motivi forse ancora più importante della sconfitta del referendum costituzionale, della caduta di Matteo Renzi, perché Matteo Renzi con la riforma Madia, il governo Renzi con la riforma Madia andava a toccare due concetti fino a questo momento impensabili da modificare, ossia l'inamovibilità del dipendente, dei dirigenti pubblici e gli stipendi. Si alzò una levata di scudi tra agosto e dicembre impressionante, con il Consiglio di Stato prima, la Corte Costituzionale dopo, che diedero spallate al governo prima del referendum, e il referendum fu, diciamo, la causa finale della caduta del governo. A volte riforma... a me nel tempo però è venuto spesso il sospetto che, siccome a redigere i testi sono i burocrati, non sono i politici, e questo è assodato, il diritto tributario è scritto da testi scritti da Agentrate, che ha anche il monopolio della sua interpretazione fino a che non arriva alla Corte di Cassazione, non li scrivono i politici, molte volte di fronte a poi interventi della Corte di Cassazione o della Corte Costituzionale ci siamo trovati negli anni a errori così macroscopici da far pensare che fossero stati fatti apposta da chi redigeva i testi, cioè i consiglieri, i capi di gabinetto, normalmente magistrati della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato, per far decadere provvedimenti sui quali non erano d'accordo. Per esempio, quando avvenne la vicenda delle banche popolari, è emblematica. La vicenda delle banche popolari sul diritto di recesso è così, io non posso credere che alla presenza del Consiglio dei Ministri ignorassero che sarebbe stata cassata, però ci sono stati casi clamorosi come quelli sulle pensioni dei magistrati e così via, casi clamorosi. Nella legge elettorale, il premio, prevedere un premio di maggioranza senza soglie quando la Corte Costituzionale l'aveva già bocciato al Senato, anche quello, non ci posso credere che i capi del servizio parlamentare non lo dicano al politico. Però chiudo la parentesi, io il dubbio ce l'ho, per così dire. Sì, beh, ed è uno dei problemi, appunto, ormai il fatto che il politico sia completamente alla mercé, colpa di chi sua, scrive le norme, colpa non sua. Certo che è colpa sua, è colpa del decadimento probabilmente della politica. E quindi, però voi, diciamo, dite, aver tentato di toccare quei due temi ha suscitato un'enorme levata di scudi, hanno perso anche per quello. Hanno perso anche per questo, senza dubbio. Hanno perso per questo, poi hanno perso la vicenda delle banche popolari, è stato l'ennesimo insomma, la sostanza. Ricordo che agli ascoltatori che il testo dell'intervento sulle banche popolari prevedeva che di affidare alla Banca d'Italia un potere pressoché assoluto nell'esclusione del diritto di recesso dei vecchi soci dalla forma non SPA una volta che si diventasse SPA. Come ovvio, c'erano sei articoli della Corte della Carta Costituzionale violati, e la Corte disse: ma voi siete matti, cioè, ma chi l'ha scritta sta roba? Vabbè, chiusa parentesi. E quindi, appunto, il fatto di non essere autonomi rispetto a una burocrazia che scrive le leggi e a questo punto o le scrive male apposta o le scrive male, a questo punto anche per uno scadimento della capacità, della qualità della burocrazia, è uno dei motivi per cui non il paese non si sviluppa, non fa le riforme ed è bloccato. E quindi è uno dei motivi per cui li chiamiamo i signori del tempo perso. Allora, c'è una prima soluzione che voi dite, sì, in teoria è quella che ci deriva da tutti gli esempi che voi portate nello sviluppo degli Stati Uniti, insomma, del fatto che la scuola di public choice ci dovrebbe aver insegnato che la pubblica amministrazione, più che l'interesse generale, va considerata come una parte che ha poi un proprio interesse da tutelare, il proprio interesse a seconda di come è fatto l'ordinamento, o c'ha degli incentivi a essere rapidi, seri, efficienti e anche taglienti nei confronti della politica, oppure se questi incentivi, come nel caso italiano, non ci sono, diventa un interesse che si autotutela, soprattutto con il veto e i tempi lunghi, perché noi non premiamo i tempi brevi negli iter procedurali, per così dire. E detto questo, quindi io la sintetizzo brevissimamente: questa prima strada è quella di una riduzione molto energica nel perimetro dello Stato e della pubblica amministrazione, per effetto del quale si risolve il problema. Però siamo chiari, mettiamolo da una parte, tutti i poveri scemi come Giannino che continuano a credere in questo non hanno nessuna chance che ciò avvenga in Italia. Sono io il primo a riconoscerlo, anche se non cambio idea, e quindi mettiamola da parte. Non cambio idea perché ci sono grandi esempi di paesi, la Nuova Zelanda per esempio, cari ascoltatori, la Nuova Zelanda, paese occidentale che arriva all'inizio degli anni 90 con una spesa sul PIL del 48%, ogni attività pubblica regolamentata, ministeri e agenzie pubbliche per, anche per respirare, e che nel giro di 10 anni ha smantellato tutto. Quando dico smantellato significa che ha abbassato di più di 10 punti l'intermediazione del PIL da parte della mano pubblica, abbassando le tasse, ma soprattutto con una trasformazione epocale della pubblica amministrazione in quel paese. Risultato, ha guadagnato 24 punti nella graduatoria internazionale del PIL pro capite. Però questo non può avvenire, quindi andiamo al secondo e al terzo caso, senza che lei ci spenda neanche una parola. Andiamo invece alle due strade più probabili e poi sentiamo l'opinione di Alfredo Ferrante, dopo un minuto però di traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati qui, abbiamo uno dei due autori, l'altro è Francesco Giavazzi, con noi Giorgio Barbieri, gli autori di questo libro di cui vi ripeto il titolo, vale la pena di leggerlo: I signori del tempo perduto, i burocrati che frenano l'Italia e come provare a sconfiggerli, Longanesi è l'editore, ed è con noi anche Alfredo Ferrante, dirigente pubblico e blogger. Allora andiamo agli altri due, alle altre due rimedi che proponete, Barbieri, visto che quello dello Stato magro oggi non lo vuole nell'agenda politica, nella destra, nella sinistra, vogliono tutti più Stato, più protezione sociale, quindi più spesa pubblica. Gli altri due quali sono? Però mi permetta di dire una cosa sullo Stato più magro. Nel 2012 c'è stato un decreto del governo, quello Clini-Passera, che vietava il passaggio delle grandi navi davanti davanti a Piazza San Marco, sì, dopo la tragedia del Giglio. Subito dopo, ovviamente, le compagnie degli armatori fecero un ricorso al TAR e il TAR sospese il decreto fino a quando disse non si trovava una via alternativa per l'accesso al porto. Sono passati 5 anni, sì, e non è cambiato nulla, non si è trovata la via alternativa, le navi continuano a passare davanti a Piazza San Marco. Ma se il comune di Venezia avesse fatto un contratto privato con gli armatori vietando... decidendo che le navi non possono passare, se quel contratto fosse stato violato sarebbe stato più comodo andare da un giudice piuttosto che fare una cosa più veloce, invece che tirare sempre in ballo TAR, consigli di Stato, non si decide, si ritarda. Comunque questo era per lo sì, Stato ma lei voi descrivete un inipotizzabile paese di common law, per così dire, mentre noi sì, siamo di diritto codificato continentale, iperfetato, come dico io. Però detto tutto questo, le altre due. Allora, le altre due sono incentivare passaggi più frequenti dal pubblico al privato, perché in Italia sostanzialmente si passa, e le cito l'esempio della Banca Popolare di Vicenza per tornare al tema delle banche popolari. In Italia il passaggio dal pubblico al privato avviene sostanzialmente in base al carnet di indirizzi e conoscenze che il dipendente pubblico porta con sé, e avviene molto spesso a fine carriera. A Vicenza il vicepresidente della banca era l'ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio. Sì, sì. Però degli esempi che noi conosciamo dubiterei che questo fa cambiare le cose, perché ci si prepara a fine carriera al privato da tener buono svolgendo le proprie funzioni apicali nella pubblica amministrazione. Il problema è che il passaggio non deve avvenire a fine carriera, deve avvenire durante la carriera, deve avvenire un po' alla francese, dove i PDG sono intendenti generali delle finanze. Esatto. Questa è prima strada. È l'ultima, la terza, anzi è la seconda, la terza strada? La terza strada noi citiamo bisogna tornare a quello che succedeva 20 anni fa, ossia che la responsabilità degli atti amministrativi era in capo alla politica. Smontare la Bassanini, perché? Perché noi nel libro facciamo un esempio abbastanza locale, che è il ponte di Bassano, il ponte degli Alpini di Bassano, che sta rischiando di crollare da anni. Se il ponte crolla e la responsabilità è del sindaco, il sindaco ovviamente non viene rieletto. Se il ponte crolla e la responsabilità è del Consiglio di Stato che blocca i lavori, il TAR, che non devono mai andare ad elezioni, il funzionario pubblico ha tutto l'interesse ad attendere, aspettare, ad accoprirsi, okay, ad attendere, diciamo, la firma, queste, eccetera, eccetera. Queste due strade, sintesi estrema, perché in pochi minuti non si può dare l'idea della complessità, però in sintesi estrema l'avete capito, o porte girevoli nell'arco della carriera tra pubblico e privato, o responsabilità che torna in capo al politico. Che dice Alfredo Ferrante di tutto questo? Allora, non sfodero la spada da samurai, naturalmente, anzi, è stato, diciamo, ha una figura anche qualcosa di romantico, quindi non mi offendo assolutamente. No, faccio qualche considerazione, diciamo, le tre strade, io ho avuto modo di leggere il libro che trovo molto, molto interessante. Le tre strade mi sembrano, come dire, tutte percorribili, non vedo problemi insormontabili, se non in una decisione, naturalmente, poi della politica. Quello che mi premeva però, diciamo, evidenziare che una serie di critiche, di osservazioni che gli autori svolgono, ma che poi troviamo tutti i giorni sui giornali, sono naturalmente condivisibili, ma il rischio che io vedo è quello di un'eccessiva generalizzazione, sì, dei problemi. Lei ha scritto proprio, l'ha scritto chiaro, perché ho letto la sua recensione, insomma, piantiamola anche un po' con queste generalizzazioni, no? No, esattamente, ma non tanto sul fatto che naturalmente c'è chi lavora bene e chi lavora male, ma io sfido chiunque ad andarsi a fare la surroga di un mutuo in una banca o a cambiare il numero di telefono in una compagnia telefonica. Penso che, come tutti abbiamo avuto le esperienze negative in uffici pubblici, lo anche nelle aziende private, non c'è nel privato. Ecco, quello che direi, allora, da una parte è vero, noi viviamo in un regime in cui c'è l'idolatria della legge. Sì. Ed è un problema, direi, ontologico, perché c'è l'idea in tutti i cittadini, non solo nella politica, ma anche negli stessi burocrati, che fatta la legge si prema un pulsante a monte. Ogni problema ci vuole una legge. Si produca un effetto. Ecco, non succede così. Ed è vero che allora il problema fondamentale è vedere quella scatola nera, quella black box in cui ci sono, diciamo, si annodano i problemi. E allora, come ha detto giustamente l'altro interlocutore, una classe dirigente amministrativa indipendente è fondamentale. Il problema è come la andiamo a selezionare. Un minuto e mezzo, ci dica in sintesi estrema lei che penserebbe. La selezioniamo sicuramente, dico, una delle tante vie, ma che ha avuto ottimi risultati, attraverso un concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione che da 15 anni sforna giovani dirigenti, ne abbiamo 600 in tutta l'amministrazione, ma che purtroppo nessun governo, forse l'onorevole Brunetta l'aveva fatto, ma nessun governo sostanzialmente ha voluto spingere a fondo. Quindi questo è un punto. Ma diciamo, l'altro punto anche è, come dire, si parla di inamovibilità, problema della legge Madia, ma la legge Madia aveva dei punti secondo me fondamentali, istituiva il ruolo unico, cioè far girare i dirigenti. Sì. Ma il problema è che i dirigenti non giravano, e probabilmente non gireranno ancora, non perché non volessero, ma perché erano inchiavardati nei singoli ruoli delle singole amministrazioni. Esatto, sono d'accordo. E io stesso porto la mia esperienza personale, da pochi mesi mi sono spostato dopo 15 anni di servizio in un'amministrazione. Il problema vero della Madia qual era? Ne abbiamo parlato brevemente anche in un'altra occasione, è che si tentava di istituire, a mio modo di vedere, uno spoil system mascherato, quindi si andava forse a incidere sulla effettiva indipendenza della dirigenza pubblica. Poi naturalmente serve una riforma della pubblica amministrazione, ma serve certamente. Ma il punto vero, infatti, io non la voglio interrompere, è il terzo, perché il terzo, torniamo alla responsabilità della politica. Io da una parte lo capisco come ragionamento logico, dall'altro, lo dico a Barbieri, ma anche a mio amico da tanti decenni, Francesco Giavassi, sono più d'accordo con Ferrante, perché se torniamo alla politica, noi aumentiamo, per come vedo la politica oggi, posso sbagliarmi, la mia opinione personale, l'inquinamento della PA, 1, 2, e non ci credo che poi abbiamo il politico che paga. Però questa è la mia opinione. Intanto leggete il libro, Il Signore del Tempo Perduto, I Burocrati che Frenano l'Italia e come provare a sconfiggerli, Giorgio Barbieri, Francesco Giavazzi, grazie a Barbieri, grazie a Ferrante, continuate solo 24, appuntamento con me Alessandro Mina domani alle 8:20 con Attenti a noi due.